e faccio clap clap, hey, hey, hey. Per ogni stronzo faccio zig zag. Guardo la tele e faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la. Mi chiamo Mario, 24 anni, nome come tanti. Un numero fra numeri, fra mille volti bianchi. In metropolitana, visi stanchi. La vita sbrana, lei ha fame di contanti. La mia testa pesa davanti ad uno schermo. Ho qualche punto fermo, un mutuo, un affitto. Sul mio divano a letto, notti con un po' di whisky. Vestiti sparsi, ammassati in un cassetto. Nei miei pensieri fissi, trovo i miei eccessi. Vecchi compromessi, stessa merce, stessi prezzi. Stessa gente che avrei mandato a fare in culo. Se affoghi nella merda non ti aggrapperai nessuno. Stessi amplessi, letti diversi, mondi sommersi che ritornano a galla piccoli pezzi. Cresce più ne vedi, meno riescono a tenerti buono. Tu tieni duro se è difficile prendere il volo. Mi chiamo Mario e faccio clap clap, hey, hey, hey. Per ogni stronzo faccio zig zag. Guardo la tele e faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la. Testa bassa, mani di fisso sempre in tasca. Le spese pressano le palle, ma non mi basta. Più lo straordinario, un assegno familiario. Lo sclero che mi aggira nel traffico quotidiano. Piano, respira piano. Linee cambiano il destino nel palmo di una mano. Non sempre i cambiamenti sono cose che perdiamo. Ci vedi gli occhi gonfi di fumo denso, se dentro che bruciamo. Via, quante volte ci ho pensato. Generazioni a testa china, qui sfonda un raccomandato. Un dato non precisato o un numero fortunato. In mano di uno stronzo o un politico di stato. Agito un concentrato di passione. Sparo ad una sensazione, se conta la precisione. La direzione, quando ti senti su altri tempi, loro linee dritte, tu pioggia di frammenti. Mi chiamo Mario e faccio clap clap, hey, hey, hey. Per ogni stronzo faccio zig zag. Guardo la tele e faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la. Mi chiamo Mario e faccio clap clap, hey, hey, hey. Per ogni stronzo faccio zig zag. Guardo la tele e faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la. La notte viaggia a fari spenti, poi ti sbatte in faccia. Il lunedì mattina con la fiaca. Mastico un altro giorno da 8 ore. 8 su 24, 8 per dormire e 8 per il riscatto. Sguardo un po' distratto, lei dorme qui di fianco. Mi ripeto Mario, è tutto a posto, resta calmo. La tele parla, la luce fioca. La stanza vuota, la sveglia pulsa, la lancetta segue a ruota. Via una sigaretta, poi colpo d'accendino. Il solito posacenere fermo sul comodino. Mi rigiro, faccia sul cuscino. Domani è martedì, la settimana anche stavolta segue a giro. Nessuno sconto, prezzo fisso. Sul menù una botta, ricette fisse che non digerisco. Solite note, solito suono dell'orchestra. Cambiano gli artisti ma la musica è la stessa. Mi chiamo Mario e faccio clap clap, hey, hey, hey. Per ogni stronzo faccio zig zag. Guardo la tele e faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la. Faccio bla bla. Quando fumo mi rilasso e canto la la la la la.